and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. E Kappa, hai visto che oggi all'asilo ci sono meno bambini? Avrà l'influenza, succede. Influenza pure hanno bigiato. Ma come fanno a bigiare all'asilo, Drago? Si bigia solo alle medie. Beh, dai. Solo alle medie, anche al liceo. Vabbè, sai, ma quella bigiate. Non è la scuola dell'obbligo, non c'entra. Cosa c'entra? Vuol mica dire che puoi fare quante assenze vuoi, e come no? Ma no, vuol dire che non sei obbligato a iscriverti a quelle scuole lì. Però una volta iscritto sei tenuto a frequentare. Senti com'è decisa il ministro Bambina Gelmini proprio contro quelli che bigiano. Da quest'anno non si potranno superare i 50 giorni di assenza. Ecco, 50 giorni. E poi basta. Cosa succede? E poi succede che ti bocciano. Si vede che il ministro Bambina Gelmini si è identificata con Bloomberg, il sindaco di New York. Occhio, occhio al tema, Kappa. Ma stai c'entra sul tema, il tema, Tito il tutor. Bloomberg è molto arrabbiato anche lui con gli studenti che bigiano. Bloomberg? Sì, perché costano un mucchio di soldi all'amministrazione pubblica. Hai notato che certa gente ragiona solo in termini economici? Se ti ammali, mi costi. Se bigi scuola, mi costi. Per forza, sono amministratori e amministrano. Vabbè. Bloomberg, da ottimo manager qual è, ha subito trovato la soluzione. Altro che bocciatura dopo le 50 assenze. Che cosa ha fatto Bloomberg? Preso robe all'italiano. Lui. A New York, praticamente, da quest'anno ci saranno i secchioni che dovranno fare da tutori, da tutor agli ultimi della classe. Quelli che bigiano, quelli che non fanno i compiti, quelli che si addormentano sul banco, eccetera. Vabbè, però Bloomberg, bella idea. Vedi? Sai che ci vorrebbe anche qua in Italia, ma non per gli studenti. No. Io ho in mente tipo un secchione per il bambino Luttazzi affinché non copi. Sì, perché è quello che fa. Però il bambino Luttazzi in castigo da un po', anche se copia. Lui l'ha già castigato. Però il secchione per il ministro bambino Bondi che bigia a Cannes, secondo me andrebbe bene. Sì. Oppure un secchione per il bambino presidente Masi che bigia i festival che lui stesso organizza a Venezia. Beh, non direi che è obbligatorio. Non proprio i festival, ha bigiato la cena. Però comunque, poveri secchioni. Io non vorrei essere al loro posto. Beh, non c'è problema. Scusa, mi viene in mente il bambino Gianni Letta. Perché? Ma come perché? È l'esempio perfetto. È un secchione che deve controllare un bambino vivace. Chi vorrebbe essere al posto del bambino Letta, dai? No, forse sì. Ma dai, tutti hanno pensato almeno una volta che il vero lavoro difficile in Italia lo fa lui. Sì, in effetti, quando non c'è il bambino Letta, il bambino premier le combina grosse. Mi hanno raccontato una barzelletta su Hitler che è terribile. Su Hitler? Morale, sì. Dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo. Ma lo cercano dappertutto, lo trovano in un paese sconosciuto nelle Ande. Führer, devi tornare, la democrazia ha fallito, ti aspettano tutti. E lui dice sempre di no, di no, di no. Alla fine si convince, dice, sì, però torno a una condizione. La prossima volta... cattivi, E calò il gelo. Chissà la bambina Merkel cosa pensava. Aspetta, aspetta, aspetta. Guarda, guarda, guarda. C'è il bambino Letta laggiù. Ma dove? Lì, lì, bambino Letta. Ah. Bambino Letta, volevamo esprimerti tutta la nostra ammirazione per il lavoro che svolge, sia da un punto di vista istituzionale, sia da un punto di vista umano. Davvero, complimenti. Bambino Letta, tu hai sicuramente un segreto per disinnescare il bambino premier. Spiegaci cosa bisogna fare. Deve essere ben sorvegliato, più attento, certo. Più solido e sano. Beh, sano. Ma scusa, cosa c'entra? Grazie, bambino Letta. Oh, ma, Tito, ma cosa c'è? Non siamo mica fuori tema. Vabbè, forse sì, torniamo ai bigioni. Dai, che gli esempi si sprecano anche fuori dalla scuola. In Parlamento, ad esempio, non c'è mai nessuno a parte i pianisti, che sono quelli che votano al posto degli assenti. Ah sì, certo, l'onorevole Pollini, l'onorevole Bollani, sì. L'onorevole Giovanni Allevi. Sì, il bambino Giovanni Allevi, vorrei dire. Sì, quello lì. Lui quei con quel bei riccioloni, sì. Infatti, ha sviluppato una vera e propria passione per il gesto di votare al posto dei bigioni. Bambino Allevi, eccolo lì. Bambino. Scusa, ma come nasce la tua carriera di pianista? Nasce a 4 anni, nel momento in cui scopro che il pianoforte è chiuso a chiave e mi è totalmente vietato toccarlo. Come barba. Ma io avevo scoperto dove era nascosta la chiave del pianoforte. E come si sa, qualunque bambino a cui viene proibito qualcosa sviluppa nella sua mente il desiderio di averla. E quel desiderio non mi ha mai più abbandonato. Certo. Bello, insomma, romantico. Poi proprio una speranza per tutti gli artisti che un non po' ribelle, compresi. Eh? Ribelle, sì, ribelle. Però parlamentari bigioni, ok, però ci sono anche i ministri bigioni. Sì. Ad esempio, da quanto tempo è che non si fa vedere un qualunque ministro dello sviluppo economico? Tutti lo aspettano. Quello di prima è il bambino Scajola, adesso in castigo. Lui sì. Però lui ha fatto scuola per i bigioni. Senti quello che dicono adesso i bambini quando devono giustificarsi per un'assenza. Siccome considero la politica un'arte nobile, con la P maiuscola, la prende da lontano. Per esercitarla bisogna avere le carte in regola. Vedi. E non avere sospetti. Se dovessi scoprire che la mia abitazione fosse stata pagata in parte da altri. Qui vedi come... senza saperne motivo. Hanno imparato memoria. Il tornaconto, l'interesse, i miei legali eserciteranno lezioni necessarie per l'annullamento del contratto di compravendita. Grazie. A Milano si dice bigiare, a Verona si dice fare manca, a Torino si dice tagliare, a Roma invece si dice fare sega. Non ho capito, ma fare sega non è quando poi diventi cieco? Pieno asilo! Comunque, K, secondo me questa cosa del secchione di Bloomberg, di controllare quelli ribelli, secondo me non funziona, perché i bambini che disturbano, i bambini disubbidienti, vanno puniti con uno bello schiaffone, con violenza. Ma cosa dici? Ma sei il solito vecchio bacucco, ma lo schiaffone, guarda che il castigo non serve. Eh sì, chi lo dice? Tony Negri. Ma che Tony Negri? L'ho letto in un manuale per addestrare i cani. Vabbè, appunto, i cani, cosa c'entrano i bambini? Ma è la stessa cosa. Se una cosa funziona con i cani, funziona anche con i bambini. Scusa, se Tito il tutor la facesse sul pavimento, come ti comporteresti tu? Nel classico modo in cui ci si comporta. E cioè? Gli prendi il muso e glielo metti nella pipì, così la prossima volta non lo fa più, no? Ecco, quello è proprio quello che non devi fare. E allora cos'è che bisogna fare? Bisogna fare che ogni volta che la fa nel posto giusto lo premi, capito? Non c'è castigo quando sbagli, ma ricompensa quando fai bene. Sì, ho capito, però scusa, se non la fa mai nel posto giusto e la fa sempre nel posto sbagliato, vuol dire che hai fallito come educatore. Attenzione. Scusa, Tito, non parliamo più della tua pipì, della tua vita poverino, privata. Anche lui, però intanto continua a farla sul pavimento. Vabbè, quindi... te l'ho detto che non sei un buon educatore. Veramente Tito il tutor sta sempre con te, quindi... Dai, ecco, vabbè, dai, basta, che sennò questo non la smette più, dai. Però non è colpa sua, scusa, lui è privo di senso di colpa, ma capito? Chi? Ma Tito, il tutor, e invece a volte è proprio il senso di colpa che ti salva. Ma sì, cosa diceva Raskolnikov? Chi? Raskolnikov, il protagonista di Delitto e Castigo, un di Dostoevskij, ma dai. Che ne so cosa diceva Raskolnikov, cioè deve averne dette tante, lungo, Delitto e Castigo. E allora chiediamolo a quel bambino lì, lui lo sa. Chi è? Ma come chi è? Ma non sai niente, è il bambino magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo, autore tra l'altro di Romanzo Criminale. Dici che lui sa quello che diceva Raskolnikov? E chiediamoglielo. Vabbè, bambino magistrato e scrittore De Cataldo, autore tra l'altro di Romanzo Criminale. Sì. Cosa dice Raskolnikov? Raskolnikov dice: sono un giovane brillante ma sono povero. L'ordinamento sociale è ingiusto, il mio gesto individuale potrà servire a sovvertirlo o quantomeno a cambiarmi l'esistenza. Capito. Molti lo pensano oggi, qualcuno lo fa e devo dire purtroppo a volte circondato dal applauso generale. Ecco, bravo, ce l'hai fatta, non ti sei fatto beccare. È il paese dei furbetti. Eh sì, ma infatti così il concetto di castigo ormai non esiste più. Il concetto di delitto sì, quello di castigo no. Perché i genitori italiani sono così maturi, così bambini loro stessi, che non se la sentono di punire i figli. Cioè si identificano in loro, hanno paura. È come se punissero loro stessi. Ma scusa, ma come li metti in castigo i bambini oggi? Li chiudi in cameretta? Quelli lì in cameretta hanno la TV, il computer, la PlayStation, i cellulari. Puoi sempre chiuderli in cantina, no? Ma come in cantina? Sì, ma cosa dici? L'equivalente odierno della cameretta dei miei tempi, di quando ero piccolo io, è una cantina al giorno d'oggi, uno sgabuzzino. Ma che cameretta avevi? Non ero collegato a internet, non c'era la televisione, c'era giusto il letto. Ma non puoi chiudere un bambino in cantina, Drago, ti arrestano! Guarda che succede anche di peggio. Senti cosa fanno in certi asili. I bambini trascorrono la giornata tra la stanza dei giochi e il giardino. Sì. E la sera, intorno alle 19, rientrano nelle celle dove dormono e rimangono fino al giorno dopo. Vabbè, ma non c'è celle. Mica bisogno di arrivare alle celle. Infatti adesso io sono per la cantina. Ma nemmeno alle cantine, dai, basta proibire l'uso del PC, l'uso della TV, l'uso del cellulare, poi l'uso delle PlayStation, perché ne hai più di una, dell'iPhone, dell'iPod, anche lo shuffle, che è piccolo, poi l'iPad. Insomma, la lista è lunga, Diciamo che oggi un bambino è virtualmente impunibile. Ah beh, e allora adesso col processo breve nessuno sarà più punito. Te l'ho detto, è molto meglio la cantina. Torniamo domani! E se volete fare sega, scrivete a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo!